Roma Trastevere, 16 gennaio 1974. Care Eleuterio, la casa che ascoltò i canti infantili di mia sorellina e i miei, oggi ascolta i nostri discorsi di signore amareggiate. La nostra ultima lite, più che a me, ha fatto male a mia sorellina, che vorrebbe tanto essere al mio posto, perché, come dice lei, dopo ogni lite sarebbe il buzzurro a uscire di casa trasportato con due barellieri. Mia sorellina sta suonando l'arpa e io penso che l'arpa è la radiografia del pianoforte. Penso anche che sei un cretino, Eleuterio. Il mercato comune è un fatto e non lo puoi negare, sempre tua. Roma Parioli, 17 gennaio 1974. Inesorabile sempre mia. Vorrei proprio vedere tua sorellina suonare l'arpa. Tenuto conto che misura approssimativamente 212 di torace e 50 centimetri dalle falangette alle spalle. Ma come ci arriva alle corde? Il mercato comune è un fatto, nessuno lo nega, ma casa mia non vale, perché io non sono stato invitato a farne parte come singolo cittadino. Eleuterio. Roma Trastevere, 18 gennaio 1974. Care Eleuterio, felino, senza specificare, così potresti essere di tutto. Mia sorellina ha letto la faccenda relativa all'arpa. Ha pronunciato al tuo indirizzo parole da film d'arte. Poi, leggermente adirata, hanno dato fra loro gli alari di ferro battuto del caminetto. Dice che con te, se fossi più altino, riuscirebbe a fare il nodo Savoia. Guarda il quadro che il cigno ha appeso in salotto e io penso che il cigno è l'Alighieri Noschese dei Pennuti che tenta l'imitazione della giraffa. Penso anche che insisterò con il mercato comune, perché è giusto che sia così, sempre tua. Roma Parioli, 19 gennaio 1974. Interminabile sempre mia. La tua mancanza comincia a farsi sentire. Il bagno è sempre libero e non posso inveire contro nessuno. Il caffè che mi faccio è ottimo e non ho ragione di sbattere la tazzina per terra. Nessuno mi fa domande cretine e io non mi posso sfogare, mi annoio, torna. Anche perché qui succedono cose strane. Nell'armadio ho trovato un ignobile vestito spezzato, giacca blu e pantaloni verdi. Chi l'ha mai ordinato un vestito simile? Eleuterio. Ho scritto. La portinaia ha risolto il mistero del vestito. Dice che ieri ne indossavo uno altrettanto ignobile. Pantaloni blu e giacca verde. Ho cambiato la giacca e tutti e due gli abiti sono tornati abbastanza eleganti. Roma Parioli, 20 gennaio 1974. Care Eleuterio, micione! Sono di nuovo qui, nella casa che tu sognavi arredata con mobili moderni e io con mobili antichi e quindi arredata con mobili antichi. Ho levato il cestello delle uova da sopra il pianoforte, stonava con l'arredamento e io penso che l'uovo è il ruspante che poteva essere e non è stato. Penso anche alla nostra ultima lite, della quale ricordo tutti i particolari. Tu eri nello studio e sei uscito fuori come una belva. Di un po', dove diavolo stanno le chiavi della mia macchina? Intendi della macchina tua intestata a me? Sì, dove stanno? Insieme alla macchina, Eleuterio. Non pretenderai che uno venda una macchina senza vendere anche le chiavi della macchina. Ma che diavolo stai dicendo? Chi l'ha venduta la macchina mia? Eleuterio, quello che tuo è mio, vale a dire, è in comune. Ho esportato la tua macchina e ho importato una pelliccia per me, più 300.000 lire che ho investito in oro per evitare la svalutazione. Ma tu devi essere matta! Ma che cosa ti viene in mente? Abbiamo deciso di attuare il mercato comune fra me e te. Abbiamo? Tu e tua sorellina? Sì, È stupido tenere immobilizzato un capitale automobile oggi che c'è l'austerity, quando una pelliccia aumenta di valore, non paga bollo, assicurazione e soprattutto non consuma. Io a lavorare come ci vado? In pelliccia? Pelliccia no, perché quelle che abbiamo sono da donna. Però siccome abbiamo esportato i tuoi 3 fucili da caccia e siamo riuscite a importare una borsetta di coccodrillo e un paio di pattini a rotelle, dato che il mercato è comune, io posso usare la borsetta e tu i pattini per andare a lavorare. Ah, sì, che avete esportato e avete importato, avete, tu e tua sorellina. Sì, perché? Perché io adesso importo te e tua sorellina nello scantinato di nostra proprietà, faccio alcune operazioni segrete e esporto dal Colorado di fronte 7,5 quintali di sapone per bucato e così mi libero di 7 quintali di cognata e di 0,5 quintale di moglie. Eleuterio, non sei nemmeno spiritoso. Ma nemmeno Barba Blu era spiritoso, però si divertiva come un pazzo in cantina. E di, che altro avete esportato? Così sai per curiosità. Ah, la tua collezione di francobolli! A parte il fatto che erano quasi tutti usati, ingombravano e non rendevano niente. E li avete esportati? Sì, facendo scambio merci. 6 foulard firmati, 1 stoletta di visone, 3 lattine di cherosene e 1 mazza fionda per te. Ti piacciono tanto le armi. E anche se non si tratta di un investimento, pazienza. E dove l'hai messa la mazza fionda? Eccola lì sopra. Ah, bella. Io adesso la provo. Metto nella vaschetta qualche chiodino da tappezziere, prendo la mira. Eleuterio, la mira prendila da un'altra parte. Ho l'impressione di essere sotto tiro. Ti giuro che non è una tua impressione. Posa quella fionda. Non poso proprio niente. Tu mi dai la fionda a me, io ti do i chiodini a te. Mercato comune. Eleuterio, posa quella fionda. Mi hai quasi colpito, Eleuterio assassino. Torno da mia sorella. Aspetta, non fuggire. Dammi il tempo di riprovare. Ricordo tutto perfettamente, anche i minimi particolari, ma quando rientrerai farò finta di niente, come al solito. Ciao. Ciao, Eleuterio. Parlando con mia sorellina, ci è venuta l'idea di incrementare l'edilizia, modificando...